Sì, Nazem sì, per spiegarvi la condizione del tempo, com'è che va qui, yeah. Vorrei avere più tempo per parlare del mondo. Vorrei avere più tempo per parlarvi dal profondo. Vorrei avere più tempo, ma il tempo sta finendo. Sono un essere sconosciuto, non mi importa di essere qualcuno. Il numero uno è lontano, quindi vivo in base al tempo. Pioggia, sole, freddo, calore, cerco di trattenere questa emozione. Non c'è più tempo, sta finendo. Una vita vissuta a stento. Cammino sui miei piedi, ma non li sento. Andiamo avanti, non crescendo, diventando grandi. Solo nel di dentro le parole volano, volano col vento, rimanendo sempre ognuno al proprio posto. Bello, lo sai, avere una vita senza costo. Il tempo vale oro, il tempo è tutto il tempo che ora speso col lavoro. Il tempo nel presente, il tempo nel futuro, un occhio guarda in avanti e l'altro nel passato oscuro. Troppo tempo perso, troppo tempo rinchiuso in un piccolo verso, troppo tempo chiuso in chissà dove, troppo tempo perso a cercare l'amore in un battito di cuore, in un soffio di calore. Tempo dato in prestito, tempo mai avuto, provando a rivivere il tempo che ho vissuto, ma ora purtroppo è già finito. Non c'è più tempo, sta finendo. Una vita vissuta a stento. Cammino sui miei piedi, ma non li sento. Andiamo avanti, non crescendo, diventando grandi. Solo nel di dentro le parole volano, volano col vento, rimanendo sempre ognuno al proprio posto. Bello, lo sai, avere una vita senza costo. Il tempo è sparito, come l'ossigeno in una stanza è svanito. Dentro i miei polmoni si è consumato, per un ultimo respiro andato col tempo. Per un ultimo respiro con sentimento, per una vita che ven fuori da me. Perché siamo fatti da soli, con le nostre regole del far da sé, fa per tre. Ma io non ti regalerò mai niente, cerco di puntare sempre in alto. Non voglio lamento, e vivo seguendo il mio tempo.